Era il 1956 o il 1957, non ne sono sicuro. Avevo 9 o 10 anni. Ero un bambino. Il paese in cui abitavo era Edolo, Valcamonica, Lombardia, Italia, in mezzo a verdi alte montagne. La linea ferroviaria che arriva a Edolo finisce lì, non va oltre. I binari, dopo 100 o 200 metri dalla stazione, finiscono contro una specie di trabiccolo metallico. Fine della ferrovia. Era un posto bellissimo per giocare. Ci giocavamo nel pomeriggio, fino quasi a buio, con le bande. Le bande eravamo noi, divisi in due gruppi nemici. Non ricordo come si chiamavano le bande, ma certo i nomi dovevano essere quelli di qualche gruppo o tribù presi dai film che vedevamo alla domenica pomeriggio. Nessuno aveva ancora la televisione in casa. La televisione era solo nei bar. Noi vedevamo i film al cinema dell'oratorio e, tornando a casa, giocavamo a quello che avevamo veduto. Io ero il capo di una banda. Non so perché fossi io il capo. Non credo di essere stato più forte o più veloce o più coraggioso degli altri. Però, a scuola, scrivevo dei bei pensieri. Non immaginavo ancora che da grande avrei fatto lo scrittore, però scrivevo bei pensieri. Insieme ai pensieri avevo le parole, e le parole servono per fare il capo. Uno senza parole, che capo è? Forse è per questo che ero il capo della banda. Le bande combattevano una contro l'altra. Non mi ricordo se ci fossero dei motivi, ma forse non ce n'erano. Le bande si combattevano perché erano nemiche, ed erano nemiche perché si combattevano. Ci si cercava, ci si catturava. Non ricordo cosa facessero quelli della banda nemica quando catturavano uno di noi, però ricordo quello che facevamo noi ai prigionieri. Gli facevamo un processo nella nostra tana. La tana della mia banda era un vagone abbandonato, di legno vecchio e malandato. Era un vagone per il trasporto del bestiame. Ma nessuno ci trasportava più niente. Stava da anni alla fine del binario, dimenticato dal mondo, sotto la pioggia e la neve o sotto il sole. L'ingresso era aperto perché il portellone era bloccato. C'era una certa altezza su uno dei lati del vagone, una finestra rettangolare, molto più larga che alta, chiusa da uno sportello di legno che si apriva verso l'interno, facendo perno sul lato inferiore. Io non avevo mai notato quello sportello, né come si apriva, perché era sempre stato chiuso. E perché io andavo in quel vagone a giocare e non a guardare gli sportelli. Quando catturavamo un prigioniero, lo portavamo nella tana e gli facevamo il processo. Essendo il capo della banda, io ero anche il capo del processo. Ero io che interrogavo il prigioniero. Non ricordo che cosa gli chiedevo. Ma dovevano essere cose che lui non poteva rivelare. Un giorno dunque catturammo uno della banda nemica e lo portammo nel vagone per fargli il processo. Lo guardai con disprezzo, anche se credo che questo per un giudice non sia regolare, e dissi: "Si inizi il processo." Ricordo con precisione le parole: "Si inizi il processo." Poi, per dare più forza al mio ordine, feci una cosa. Non so se la feci per la prima volta o se l'avevo fatta altre volte. Se l'avevo fatta, le altre volte non aveva avuto conseguenze. Quella volta le ebbe. Ma cosa feci? Dopo aver detto "Si inizi il processo", diedi un gran colpo all'indietro con il tallone alla parete del vagone. Sentii una botta tremenda sul naso. Credo di aver visto le stelle. Lo sportello del carro bestiame, al calcio, si era aperto all'interno, ribaltandosi sulla mia faccia, sul naso precisamente. Non ricordo con precisione, ma credo di aver sollevato le mani e di aver spostato lo sportello. Ero molto intontito. A quel punto tutti scoppiarono a ridere. Questo lo ricordo bene. Ricordo che gridai: "Non ridete!" Invece continuavano a ridere. Io ero spaventato e arrabbiato per quelle risate. Ricordo che tornai a casa da solo. Il naso mi faceva molto male e aveva solo un segno rosso. Nei giorni seguenti continuava a toccarmi il naso per sentire se era rotto, ma non lo era. Non mi accorsi però che il naso si era spostato e nessun altro se ne accorse, perché non si era spostato molto. Me ne accorsi qualche tempo dopo, parecchi anni. Uno che mi guardava mi disse: "Lo sai che hai il naso un po' da una parte?" Io andai davanti ad uno specchio ed era vero. Ecco come si è spostato il mio naso. Fu colpito dallo sportello di un tribunale ferroviario e bestiale all'inizio di un processo.